e oggi a nome del Forte, dell'Assemblea del Forte, faccio un cappello a questo dibattito, un incontro e poi passo la parola a Checchino Antonini, che invece sarà il vero moderatore del dibattito. Essendo, come tutti quanti noi ben sappiamo, un argomento molto particolare e quello che andiamo a affrontare oggi, non parlerò a braccio. Abbiamo preparato un piccolo cappello, per noi è un momento di condivisione molto importante e siamo molto felici ovviamente di avere questo momento di condivisione tutti insieme. Smetto di perdere tempo. Allora, è un vero piacere, se di piacere si può parlare relativamente ad un'associazione che spera di non avere più motivo di esistere, introdurvi al dibattito che inizierà tra poco e che vedrà esprimersi diverse realtà che operano all'interno dello stesso quadro, ovvero gli abusi perpetrati da chi indossa una divisa di Stato, quelle stesse divise incaricate dallo Stato di proteggerci da violenze, tortura e morte e dallo stesso difese e legittimate quando abusano dei poteri loro conferiti per proteggerci. Quelle divise che sono parte di uno stesso sistema Stato che picchia e manganella, come è avvenuto ieri in molte città italiane durante le manifestazioni degli studenti medi, e che pur di difendere il proprio potere non esita a uccidere e a torturare in Italia, dove la tortura non esiste. Siamo un centro sociale occupato e autogestito e proviamo quotidianamente a sviluppare quella socialità della quale il mondo sembra depauperato. Ci apprestiamo a compiere tra qualche mese i 30 anni del nostro percorso collettivo. Siamo militanti antifascisti e siamo convinti che questo tipo di violenza sia pienamente parte del fascismo che la cultura del potere, celato dalle divise, cova e alimenta quotidianamente. Siamo dunque convinti che il Forte sia un luogo appropriato per questo tipo di iniziativa, fin tanto che ve ne sarà bisogno, alla stregua di ogni altro luogo simile per sensibilità politica. Un ringraziamento speciale va a tutte e tutti voi presenti oggi, dalle persone che hanno reso questo percorso possibile, in primis ed in special modo a Valerio di ACAD Roma, oltre che a tutte le realtà che ci hanno supportato ed affiancato, a tutti i collettivi, le associazioni e le individualità che oggi ci attraversano partecipando attivamente. Antigone, l'Osservatorio sulla repressione, Popoff, l'Associazione Davide Bifolco, Il dolore non ci ferma, Ilaria Cucchi, Claudia Budroni. Inutile ricordare il nostro abbraccio a tutte e a tutti voi, familiari delle vittime, che quotidianamente affrontate una lotta di un'intensità inimmaginabile per chi non vi si trova in prima persona. E quando ci si trova nella vostra situazione non lo si sceglie, vi si viene catapultati drasticamente. Oggi siamo qui con la nostra semplicità per condividere ancora di più il vostro dolore, la vostra coscienza, la vostra voglia di non arrendervi ad un sistema che sembra solo voler difendere evidenti responsabilità di esseri umani che in realtà di umano hanno ben poco. Il vostro dolore è la nostra rabbia, la vostra determinazione, la nostra determinazione, il vostro andare avanti, il nostro sorridere nonostante tutto. Passo la palla a Checchino Antoniti, a Checchino Antonini, scusate. Benvenuti e benvenuti al Forte Prenestino. Grazie a tutti, grazie Mario, grazie al Forte. Allora, nel 2014 ACAD aveva 184 tesserate, abbiamo fatto 46 iniziative in giro per l'Italia. Nel 2015 siamo a 377 tesserati e abbiamo fatto già 37 iniziative. Questa è la 38ª. ACAD in 2 anni si è radicata in circa 20 città, coinvolgendo anche alcune decine di legali disponibili appunto a mettersi a disposizione dei casi che ci vengono denunciati. Stiamo sperimentando uno strumento che è quello del numero verde che ci consente di entrare in contatto non soltanto con le persone che stanno subendo degli abusi, ma anche con moltissime altre persone che sperimentano quotidianamente la violenza e l'abuso nei comportamenti ordinari delle forze dell'ordine di chi indossa una divisa. In poche parole, ACAD è la ricerca di strumenti efficaci per contro la repressione, contro gli abusi di polizia, la costruzione di una solidarietà con le famiglie, una solidarietà che nasce dal basso e cerca di costruire competenze, di trovare delle risorse concrete ed efficaci. ACAD è anche comunicazione e quindi iniziative come queste sono centrali nella costruzione di una nuova cultura contro gli abusi. È uno dei tentativi possibili contro quella miscela velenosa che ha ucciso Dino, Stefano, Federico, e un elenco interminabile che non vi sto a fare. Una miscela composta dai comportamenti autoritari e fascistoidi delle forze dell'ordine, dall'emergenza sicurezza costruita dalla politica e dalla stampa mainstream. È il proibizionismo contro gli esseri umani e contro gli stili di vita, ed è ed è il razzismo che è una delle componenti di questa miscela velenosa. Io inviterei subito Ilaria Cucchi a intervenire. Ilaria non ha bisogno di presentazioni, soltanto 2 settimane fa è stata protagonista anche insieme a noi di un'altra iniziativa concreta per costruire una nuova coscienza, il primo Memorial Cucchi, al quale molti di noi hanno preso parte. È importante la presenza di Ilaria qui perché oltre alla testimonianza di una storia c'è anche un clima diverso che si sta costruendo nelle indagini dell'inchiesta BIS. Se ce ne vuoi parlare, grazie. Io parlo da qui? Sì, sì. Okay. Sì. Intanto, grazie a voi. Mentre Chino parlava, ricordavo una cosa, la sensazione che ho provato 6 anni esatti fa, la sensazione di solitudine, di impotenza. Però dopo aver provato un dolore così grande, pochi istanti dopo ero lì a chiedermi: ma io che faccio di fronte a tutto ciò che è così tanto più grande di me? Insomma, la sensazione di solitudine devastante, che in quel momento non lo sapevo, ma ho capito poi essere l'arma più potente che hanno coloro che vogliono mettere tutto a tacere fin dal primo istante. Ecco, grazie a realtà come ACAD, io credo che questo sarà sempre più difficile che accada, e per noi famiglie è un aiuto fondamentale. Un aiuto è anche il nostro essere uniti, io, Claudia e tanti altri, e andare avanti nonostante tutto insieme, perché il dolore che ci unisce è lo stesso, le difficoltà che proviamo sono sempre le stesse, perché i meccanismi sono sempre gli stessi, identici. E il sacrificio che viene chiesto a noi famiglie nel momento in cui diventiamo improvvisamente da persone normali a vittime di soprusi è un sacrificio enorme, sul quale veramente io ogni volta invito tutti a riflettere, perché 6 anni fa credevo che il dolore più grande che potessi provare era sapere che mio fratello era morto e saperlo tramite un decreto di autopsia, cioè un foglio sul quale ci dicevano che di lì a poche ore avrebbero sezionato il corpo di mio fratello. E invece no, il dolore continua e sembra non finire mai, perché i nostri percorsi sono assurdi, spaventosi, sono percorsi nei quali spesso tutti noi ci chiediamo: ma siamo sulla strada giusta? Io mi chiedevo tante volte durante quel processo: ma mio fratello avrebbe voluto questo? Che sacrificio gli sto chiedendo? Perché lo sto sottoponendo ad un processo principalmente a lui, nel quale ogni volta si ribadisce che poi in fondo il principale, se non l'unico responsabile della sua morte, è proprio Stefano, prima ancora che tutti gli altri. Questi sono stati i nostri 6 anni passati, anzi 5. Perché poi è successo qualcosa, è arrivata la svolta, è arrivata, io credo, grazie al fatto che noi familiari non ci siamo mai fermati, grazie al fatto che Fabio ci ha creduto fino in fondo, senza arrendersi mai di fronte alle mille difficoltà. Ed è arrivata anche grazie al fatto che tante persone come voi sono sempre state presenti nelle nostre vicende, hanno sempre fatto sentire in qualche modo la loro voce. E allora è diventato più complicato dall'altra parte chiederci di far finta di niente, insomma a un certo punto non si poteva più far finta di niente, e così c'è stata finalmente quella svolta. Tu parlavi dell'iniziativa fatta pochi giorni fa in occasione dell'anniversario della morte di Stefano. ACAD anche in quella circostanza è stata accanto a noi e ci ha dimostrato che non eravamo soli. Quella è stata un'iniziativa nella quale tutti noi, io, te, la Rossa e tutti coloro che ci hanno messo l'anima, hanno avuto una sensazione di speranza, di positività per la prima volta dopo 6 anni. Ed è stata un'iniziativa molto significativa perché riassumeva in quella mattinata quello che è stato il nostro percorso, un po' come l'anno scorso alle Mille Luci. Tutta quella gente che dopo la sentenza, ve lo ricordo, la sentenza di secondo grado che assolveva tutti per insufficienza di prove, ragazzi, insufficienza di prove, dopo 5 anni di processo, dopo che è stato tirato fuori di tutto, tutti venivano assolti. Tra l'altro anche perché tanti periti e consulenti non erano riusciti nemmeno a far individuare una causa di morte. Questo era stato il processo per la morte di mio fratello. Un anno fa, come pochi giorni fa, eravamo tutti insieme e la sensazione era meravigliosa perché tante persone che eravamo riusciti a coinvolgere, anche persone che magari non la pensano esattamente come noi, erano lì con uno spirito di vicinanza, non ci guardavano con compassione, ma era uno spirito di condivisione e anche quella volta di speranza. Io me lo ricordo. Guardandomi indietro, pensando ad un anno fa, pensando al momento in cui è stata pronunciata quella sentenza, io forse sono stata una pazza perché mi sono guardata Fabio e ho detto: Fabio, noi abbiamo vinto. E lui mi guardava sconvolto, come dire: questa è impazzita, ce la siamo giocata, è impazzita dopo 5 anni di battaglia finita così. E invece avevamo vinto perché se la giustizia lì dentro non era stata in grado di dimostrare che poteva essere tale anche per mio fratello, che insomma era un ultimo, no? Non hanno mai mancato di ricordarlo che comunque lui era un tossicodipendente, che era, com'è che disse la Loi, era cafone e maleducato e quindi il responsabile della sua morte, fuori da quell'aula qualcosa era cambiato rispetto a 6 anni fa, rispetto a quando mi sentivo così tanto sola. Fuori da quell'aula eravamo riusciti a far capire alle persone cosa era successo a Stefano e tutti si sono indignati insieme a noi e oggi andiamo avanti con quello spirito. Io non lo so, ma io mi sento positiva perché sento almeno che qualche passo avanti l'abbiamo fatto. Non lo so che succederà, se la giustizia potrà arrivare anche per mio fratello. Però io non mi sento più sola come mi sentivo sola 6 anni fa e questo è qualcosa di enorme per noi. Un ruolo chiave nella costruzione di Agat ce l'hanno i legali che si sono messi a disposizione. Uno di questi è sicuramente Fabio Anselmo che può aggiornarci su alcuni dei processi che si stanno appunto succedendo in questa fase. Scusa le spalle, Fabio, adesso mi sposto. Buonasera a tutti, io sono senza voce purtroppo e chiedo un po' di pazienza. Parto da Stefano Cucchi, il troncone bis dell'inchiesta ha individuato i responsabili di un pestaggio feroce nei confronti di Stefano. Dico ha individuato perché sono stati individuati. Quello che noi percepiamo è che la Procura di Roma, anche con l'aiuto dei testimoni che abbiamo portato, abbia raggiunto una certezza riguardo all'identificazione di coloro che hanno pestato Stefano immediatamente dopo l'arresto. Rimane ancora oscuro, almeno da un punto di vista processuale, quello che è successo a Piazzale Clodio durante l'udienza di convalida, o meglio subito prima che Stefano venisse portato davanti ai giudici per l'udienza di convalida dell'arresto. Per questo, diciamo, secondo pestaggio, perché a questo punto dobbiamo parlare di 2 pestaggi, è fissata l'udienza in Cassazione per il 15 di dicembre. Noi chiaramente abbiamo fatto ricorso, abbiamo chiesto l'annullamento della sentenza di Corte d'Appello di secondo grado e anche della sentenza della Corte d'Assise di primo grado, per tutta una serie di motivi che non sto qui a dirvi, ma diciamo i principali proprio riguardano le operazioni medico-legali compiute che veramente hanno raggiunto un livello tecnico e scientifico imbarazzante. Non so se qualcuno di voi assiste al triste spettacolo mediatico del processo per la morte di Yara Gambirasio a Brescia, ma lì abbiamo lo stesso medico legale della procura che avrebbe a suo dire risolto il caso Cucchi. L'ha risolto così bene che la Corte d'Assise d'Appello ha detto: non sappiamo di che cosa è morto Stefano Cucchi. Dopo 5 anni di processo, dopo perizie e consulenze, i superperiti, la professoressa Cattaneo, per fare un nome, super esperta, è stata così brava che la Corte d'Assise d'Appello ha detto: non siamo in grado di capire di che cosa è morto Stefano Cucchi. E questo è stato il motivo, uno dei motivi principali della soluzione di tutti. Anche su questo piano noi siamo vicini finalmente alla verità e stiamo lavorando anche in questi giorni. Io sono molto ottimista. Sono molto ottimista perché al di là di quello che potrà essere l'esito del giudizio della Cassazione, sicuramente coloro che hanno rotto la colonna vertebrale a Stefano verranno portati a giudizio e stiamo lavorando, verranno portati a giudizio per omicidio, non per lesioni dolose, lievi. Questo è un fatto sul quale noi ci siamo incaponiti da 5 anni a questa parte e alla fine i fatti ci stanno dando ragione. Per quanto riguarda, quindi io credo che su Cucchi posso chiudere dicendo che le novità si sapranno a brevissimo. Detto questo, per quanto riguarda Bifolco, il 19 di novembre abbiamo l'udienza. Questa udienza è un po' un miracolo, tra virgolette. È un miracolo perché l'imputato Marchiarolo, che ha sparato a Davide Bifolco, aveva invocato l'incidente e da questo incidente era nata un'imputazione di omicidio colposo. L'imputato ovviamente ha chiesto di essere assolto per causa di forza maggiore, per caso fortuito. Noi, almeno cioè io, riguardando gli atti e ascoltando i testimoni, quegli stessi testimoni che presi nell'immediatezza dei fatti il giorno dopo la morte di Davide, l'uccisione di Davide, e li presi a verbale e che vennero tacciati di falso, in realtà questi testimoni che descrivevano una scena incompatibile con l'inciampo, con l'incidente, ora hanno una credibilità diversa e questa credibilità l'abbiamo ottenuta attraverso l'acquisizione di tutte le conversazioni registrate con la centrale operativa di quella notte, scusate la voce ma più di così non riesco a parlare, e queste conversazioni, attraverso l'ascolto di queste conversazioni, i protagonisti di quella tragedia descrivono un film completamente diverso di quello poi messo a verbale la sera e i giorni successivi. L'imputato aveva chiesto il rito abbreviato proprio per evitare sorprese e una volta chiesto il rito abbreviato è un suo diritto e deve essere concesso e il processo si chiude, la scatola processuale si chiude e rimane chiusa se non in casi eccezionali, può essere rimessa in discussione. Noi ci siamo riusciti, il GUP non ha ritenuto di poter decidere su quella base perché non ha ritenuto sufficientemente provato il fatto così come descritto dall'accusa e ha accolto la nostra richiesta di riaprire l'istruttoria. E infatti il 19 avrebbe dovuto essere sentito il consulente balistico, ma per problemi di salute non potrà essere sentito, verranno sentiti due colleghi, il collega di pattuglia di Marchiarolo, che è colui che ha sparato Davide, e il maresciallo Sarno, che era il comandante di strada di tutte le gazzelle di quella sera. Sarà un'udienza molto delicata, molto importante, ma è estremamente importante il fatto di essere riusciti a ottenere un provvedimento eccezionale, che è quello della riapertura dell'istruttoria, che potrebbe consentire, qualora poi gli esami confermassero le nostre tesi, il cambio eventuale di un'imputazione da omicidio colposo a omicidio volontario. Per quanto riguarda Magherini, ecco, il processo è estremamente difficile, delicato, perché abbiamo una procura che assomiglia molto, un PM che assomiglia molto ai due PM del processo Cucchi, di cui ha fatto cenno prima Ilaria, moltissimo. Abbiamo la netta sensazione che si faccia un processo suicida, cioè un processo dove l'accusa lavori quasi per far assolvere gli imputati. È una situazione estremamente difficile e delicata. Sarà una battaglia molto simile a quella che abbiamo combattuto per Stefano. E poi parlo per ultimo, ma non per ultimo, dell'uccisione di Bernardino Budroni. Questo è un caso silente, non se ne parla, si ha grande difficoltà, non interessa. Varie sono le motivazioni. L'uccisione di Bernardino Budroni è un'uccisione molto simile a quella di Bifolco Davide, estremamente simile. L'episodio in sé. Siamo riusciti anche qui, acquisendo le conversazioni registrate con la centrale operativa da parte dei carabinieri che intervennero sul posto, e attraverso l'ascolto di quelle conversazioni abbiamo chiarito perfettamente i fatti. E abbiamo costretto i carabinieri, sentiti poi a processo, a puntare il dito contro il collega Paone della Polizia di Stato. La cosa particolare di questo processo è che Bernardino Budroni è stato processato due volte dallo stesso giudice. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo stesso giudice lo ha processato un anno dopo la sua morte e lo ha condannato, consentendo tutta la stampa di definirlo uno stalker, che stalker non era. Com'è possibile? Tutti sappiamo che nel momento in cui muore il reo, fra virgolette, l'imputato, l'indagato, il processo si ferma subito per morte del reo, perché chi si processa? Per Bernardino, per Dino Budroni, questo non è successo. Dino è stato processato in contumacia, per forza, da morto, ed è stato da morto condannato. La cosa particolare è che un anno dopo è stato riprocessato come persona offesa, cioè da morto, è stato processato lo sparatore, cioè colui che lo aveva ucciso. E lo stesso giudice che aveva condannato Dino da morto ha assolto colui che l'ha ucciso. È pazzesco. È veramente incredibile. È una storia italiana di giustizia, direi, che se me la raccontassero io non ci crederei. È stato assolto perché è stato considerato legittimo l'uso della pistola nei confronti di una persona disarmata, alla guida della sua autovettura ormai ferma, con le mani alzate. È stato considerato la soluzione, sono parole del giudice, più innocua, cioè meno pericolosa. grazie a Dio la Procura di Roma ha impugnato quella sentenza, perché altrimenti noi potevamo impugnarla solo per gli aspetti civili. L'abbiamo impugnata anche noi e avremo un processo di appello in aprile. Questo è un caso, io devo dire, pazzesco, sono tutti pazzeschi per carità, però questo è veramente pazzesco. È un caso veramente particolare, di cui purtroppo nessuno parla. Ecco, io vi chiedo da qui ad aprile di fare tutto quello che voi potete affinché se ne parli. Perché è veramente inaccettabile poter tollerare che un giudice, dopo aver capito chiaramente come è stato sparato, diciamo un colpo di pistola mortale a Bernardino in quelle circostanze, consideri lecita quell'azione, la consideri la più innocua possibile e la consideri legittima. È un fatto, io ritengo che quel colpo di pistola assomigli molto ad un'esecuzione, assomigli, ma considerarla lecita credo che sia veramente al di fuori di ogni schema, diciamo, di minima garanzia di giustizia di uno Stato che si vuole autodefinire democratico. Bardino è stato demolito, è stato ucciso e demolito anche da morto nei termini in cui vi ho detto, e nessuno ne vuole parlare o se ne parla molto malvolentieri. Io chiedo che ACAD lanci una campagna specifica su Dino, proprio per rompere questo velo, questa omertà, questo velo di silenzio su un fatto che è assolutamente inaccettabile. Io auspico che il processo d'appello ovviamente ribalti la sentenza, ma già quello che è successo alla famiglia Budrone fino ad oggi è inaccettabile, così come è inaccettabile quello che è successo alla famiglia Cucchi, Bifolco e tutti gli altri che ho nominato, Magherini. Ma che si arrivi addirittura per provocare una sorta di disinteresse, di allontanamento dall'attenzione mediatica, a condannare un morto in contumacia per stalking, è veramente qualcosa che va al di là di ogni immaginazione. Quando Claudia mi ha detto che era lo stesso giudice, io non ci credevo. E quando ho visto la sentenza, mi sono posto il problema, ma come si fa adesso a impugnare questa sentenza? Non è possibile, perché il condannato è morto e l'unico che la può impugnare è il morto. E come si fa? C'è una sentenza passata in giudicato che ha processato e condannato un morto e che non si può impugnare, perché ovviamente chi l'ha subita ingiustamente è morto ed era morto anche al tempo del processo. Ma questa sentenza ha consentito a tutta la stampa nazionale, che per un attimo si è interessata al caso, ha consentito di definire Dino e di continuare a definire Dino uno stalker, in modo tale da giustificare la sua uccisione. Quindi vi chiedo veramente un aiuto, perché con tutti i casi che tratto, con gli altri io riesco ad avere l'attenzione dell'opinione pubblica, con Dino non ci riesco, o quantomeno ci riesco molto poco, e a me dispiace questo, perché non esistono morti di serie A e morti di serie B. Stiamo parlando di morti per mano dello Stato, di morti la cui responsabilità lo Stato rifiuta in tutti i modi, ma Dino addirittura si rifiuta la possibilità anche di quel controllo dell'opinione pubblica che per noi è linfa vitale per costringere la macchina della giustizia a fare il suo dovere. Grazie. Sulla storia di Dino, sul caso Budroni ci torniamo fra un attimo. Intanto vorrei che intervenisse Italo Di Sabato, però, dell'Osservatorio sulla repressione, perché AGAD non nasce dal niente. AGAD ha nel DNA tutte le lotte contro la repressione che si sono sviluppate in questo paese da alcuni decenni, e una di queste esperienze è proprio quella dell'Osservatorio contro la repressione. Ma buonasera a tutti innanzitutto. Ma credo che, come molti di voi sapranno, l'Osservatorio nasce all'indomani dei fatti di Genova, di quei fatti che Amnesty International definì come la più grave violazione dei diritti di massa, dei diritti civili avvenuti in Europa dopo il secondo conflitto bellico. E il nostro lavoro è stato proprio quello di studiare a fondo il comportamento e il mondo delle forze dell'ordine, e anche tutto quello che si muove intorno alle legislazioni che riguardano sia la repressione in termini generali sia i termini diretti delle forze dell'ordine. Io penso che ormai da tempo viviamo dentro quello che è definita la guerra globale permanente, dentro una democrazia autoritaria in Italia così come in Europa. E purtroppo penso che i barbari assassini compiuti ieri a Parigi forniranno il pretesto per una nuova ondata e una nuova accelerazione di misure che verranno fatte in seguito a questi attentati, e che offriranno una nuova finalità e legittimazione alla trasformazione stessa del diritto penale. Si tratterà di una vera e propria trasformazione, dato che è l'esistenza stessa dello Stato di diritto ad essere messa in discussione ancora ulteriormente, soprattutto in Italia, in un paese in cui vive dentro un'emergenza infinita. Ormai siamo in 40 anni di legislazioni di emergenza e possiamo dire che ormai viviamo dentro uno stato di eccezione permanente. E quindi penso che sia necessario, e questa iniziativa di questa sera è importantissima, perché deve porci anche in essere una riflessione di come metteremo in campo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma penso anche nei prossimi anni, azioni atte a difendere proprio il diritto di essere cittadini in uno stato di eccezione permanente, la libertà di movimento e di azione, spazi che verranno sempre più chiusi in nome della difesa della democrazia e delle libertà personali. E questo è importantissimo soprattutto nel nostro paese, perché io credo che questo è un paese anche speciale, proprio per quella che ricordava anche Ilaria e Fabio precedentemente. È un paese speciale anche per la straordinaria impossibilità del corpo dei vari corpi di polizia del nostro paese a rendere conto del proprio operato. E quindi la questione delle polizie e dell'ordine pubblico è oggi particolarmente importante, proprio perché viviamo in una fase di crisi, anche oltre una crisi economica, sociale, ambientale, anche di una crisi ideale e politica nel quale lo stesso ruolo degli stati nazionali sono ridotti ai minimi termini. Anzi, questi ruoli degli stati nazionali, possiamo dire, dentro quello che è il contesto oggi generale, e visto che la governance mondiale è governata dai grandi organismi finanziari, gli stati nazionali hanno semplicemente il compito dell'ordine pubblico è proprio il compito della repressione, il compito della creazione dei nuovi nemici pubblici. E qui c'è la faccenda che noi facciamo i conti con, dentro la logica dell'emergenza, i conti con una continua ridefinizione del nemico pubblico, e quella ridefinizione del nemico pubblico è funzionale alla possibilità poi di, della repressione di massa nelle piazze, oppure dei singoli abusi che vengono compiuti sugli cittadini, perché di fatto vengono considerati nemici pubblici coloro che nelle piazze scendono per rivendicare qualsiasi diritto e vengono classificati di volta in volta come black bloc, come pericolosi terroristi, come sfascia vetrine. C'è la continua ridefinizione dei Rom, c'è la continua ridefinizione dei migranti, c'è la continua ridefinizione dei tossici codipendenti, c'è la continua ridefinizione come nemico pubblico degli ultra stadio, cioè, quindi c'è una continua ridefinizione di quel nemico che serve per far interiorizzare ai cittadini la paura e la possibilità che l'ordine costituito venga messo in discussione da una pericolosità sociale, e questa pericolosità sociale serve necessariamente a giustificare gli abusi che vengono compiuti verso anche cittadini inermi, come è successo e come è stato ricordato poco fa. Ed ecco, io credo che vivremo probabilmente degli anni molto duri, decisivi, per il futuro stesso dell'Italia, del nostro paese, ma la stessa Europa. E quindi è una saranno veramente stagioni difficili, stagioni pericolose, nel momento in cui credo che anche attualmente, insomma, quelle poche voci critiche che si muovono nel mondo dei giuristi dicono chiaramente che le libertà proprio personali, le libertà e i diritti acquisiti nel nostro paese vengono sempre più messi in discussione. Beh, io credo che di fatto ormai stiamo tornando ai tempi in cui le classi subalterne non avevano nessun diritto, dal diritto al voto al diritto di sciopero, insomma. Quindi siamo proprio dentro una fase in cui si recita la commedia della democrazia, ma sapendo bene che ormai questa democrazia è semplicemente una parola vuota, qualcosa di fittizio, nel momento in cui le normali regole di garanzie sociali vengono ogni giorno calpestate, anzi vengono abrogate, insomma, pensiamo a quello che oggi il mondo del lavoro, insomma, del welfare, insomma, di tutto quello che riguardano i diritti dei cittadini. Ecco, io credo che su questa cosa qui è necessario e utile ragionare, anche soprattutto per quello che ci attenderà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a fronte di quelli che sono stati gli attentati di ieri a Parigi, di ragionare intorno ad una parola che ha fatto molto molto breccia negli ultimi anni nel dibattito del nostro paese, che ha attraversato a 360 gradi tutte le forze politiche, il Parlamento, ma anche le associazioni, varie associazioni del nostro paese, ed è il concetto di legalità. Io credo che non ci sia più una truffa più grossa nel nostro paese come il concetto di legalità. Che cos'è la legalità? La legalità è il rispetto delle leggi vigenti. Quindi il concetto della legalità oggi nel nostro paese ha totalmente eluso il concetto di giustizia sociale. Occupare una casa nel nostro paese è illegale, ma io credo che sia giusto. Aiutare un migrante nelle acque del Mediterraneo credo che sia giusto, ma per la legge italiana è illegale. Quindi io credo proprio che questo processo che si è attivato nel nostro paese intorno al concetto della legalità non è stato né altro che una dichiarazione di guerra verso il più povero, verso i marginali, verso coloro che riempiono le carceri del nostro paese, che sono poi la stragrande maggioranza migranti, tossicodipendenti, le cosiddette classi subalterne. E questo perché ormai viviamo in un paese dove si è cambiato il paradigma dell'azione. vivevamo in un paese dove c'era uno stato sociale minimo, oggi viviamo in un paese dove c'è uno stato penale massimo e dove tutto è garantito intorno alla funzionalità della legalità, della sicurezza e oggi del decoro. Parole che servono maggiormente a creare il controllo sociale. Oggi tutti quanti noi siamo sorvegliati, giustamente come diceva Foucault, la galera inizia nel momento in cui tu esci dalle porte di casa, perché se vivi in una società piena di videosorveglianza, di controllo che ci vengono dai telefonini, dall'uso del bancomat, da tutto, quindi ci controllano in qualsiasi nostra azione che facciamo. E questa azione, tutto questo serve e soprattutto è stato creato ad arte intorno alla costruzione della paura, la paura del cittadino. Quindi la paura che viene, che il cittadino e che ognuno e che la stragrande maggioranza dei cittadini vive per l'insicurezza sociale dovuta alla mancanza di lavoro, di reddito, di casa, di avere una sanità giusta, di avere istruzione, non viene, si fa del tutto che questa paura non venga canalizzata intorno a una protesta sociale e quindi alla richiesta di giustizia sociale, ma viene canalizzata intorno alla criminalizzazione. E quindi in questo paese ormai qualsiasi elemento di rivendicazione sociale viene vista come un problema di ordine pubblico. Ecco, io credo che queste cose qui vanno necessariamente attualizzate e discusse nel nostro paese, perché ormai l'emergenzialismo e quello che di fatto avverrà nelle prossime settimane con lo stato di eccezione saranno forme di governo generale ordinarie di tutti i paesi europei. Io credo che quello che è successo ieri sera in Francia produrrà quello che è successo negli Stati Uniti d'America dopo gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Cioè quello che è stato intorno all'approvazione del Patriot Act, quindi una limitazione generalizzata delle libertà personali nel nostro paese, succederà anche in Europa, con un'attività molto molto maggiore, anche perché noi non abbiamo fatto poco i conti, anche con approvazioni di trattati europei, in cui ad esempio è il caso che è successo due giorni fa con gli arresti dei compagni milanesi per i fatti del primo maggio di quest'anno, per la prima volta si è attivata da parte delle procure italiane, da parte della procura milanese, l'azione la richiesta del MAE, del mandato di arresto europeo, che dentro il trattato europeo approvato nel 2001 subito dopo gli attentati alle Torri Gemelle. Così come si parla tanto di terrorismo, ma dentro quello che sono gli ambiti dei trattati contro il terrorismo approvati in Europa e ratificati dai paesi, ad esempio c'è il fatto che vengono considerate forze terroristiche organizzazioni che combattono in un paese in cui quel paese ha riconosciuto il trattato. Faccio l'esempio: è legale il fatto che Erdogan, il governo turco, bombardi e faccia crimini contro il popolo curdo, è reato solidarizzare con il PKK, perché il PKK è considerato un'organizzazione terroristica. E questo è il paradosso in cui viviamo oggi in nome delle leggi e dei trattati. Quindi saranno veramente dei mesi degli anni particolarmente difficili, e quindi noi ci dobbiamo letteralmente necessariamente porre con la forte consapevolezza di quello che stiamo vivendo e di quello che ci accingeremo a vivere nei prossimi mesi. Quindi dovremmo fare necessariamente molto molto attenzione, dovremmo essere molto vigili, così molto attenti anche a studiare quello che i parlamenti si appresteranno ad approvare e a ratificare prossimamente. E quindi dobbiamo necessariamente, però non possiamo rimanere neanche a guardare, e quindi, come giustamente ricordava Fabio, vanno fatte campagne come quella per riportare fortemente all'attenzione il caso di Dino Brudoni e il caso di tanti altri purtroppo vittime degli abusi di polizia, è necessario batterci anche con battaglie che portano avanti, sapendo oggi che noi siamo minoranza nel paese, di fronte a un paese impaurito, di fronte a un paese incarognito, di fronte a un paese che ormai vive la paura del nemico come quello più povero di sé e non verso chi di fatto ha causato e causa le povertà, le ingiustizie e le disuguaglianze. Ma dobbiamo produrre elementi in avanti, anche a fronte di quelle che sono i provvedimenti in itinere in Parlamento. Penso ad esempio al DDL sicurezza, che permette ulteriori strumenti di repressione di piazza. Penso alle richieste fatte dai funzionari di polizia, che chiedono ad esempio l'uso delle pallottole di gomma ai poliziotti per le manifestazioni di piazza. Io credo che dobbiamo continuare a rivendicare invece l'istituzione dei codici identificativi per le polizie, la revisione della formazione dei corpi di polizia, l'arruolamento delle forze polizie, che oggi avviene solo e semplicemente per persone che hanno partecipato dentro i teatri di guerra. Quindi quanto succede alla tortura non è qualcosa che riguarda me le marce, ma riguarda la formazione delle forze di polizia, perché le persone che oggi lavorano dentro i corpi di polizia sono persone che hanno partecipato alle torture in Somalia, in Iraq e in tutti i teatri di guerra. Quindi è stato qualcosa che hanno fatto funzionalmente nel momento in cui hanno scelto di fare quel lavoro. Di battersi per una vera legge sulla tortura, che non è la legge che è oggi in discussione in Parlamento, che è semplicemente una legge che la parola tortura ce l'ha nel titolo, ma poi di fatto garantisce ulteriore impunità a chi compie torture all'interno delle varie strutture di Stato. Quindi credo che questo è il minimo che possiamo fare per chi ha vissuto sulla propria pelle gli abusi, le torture, le servizi di Stato, di chi ha subito la repressione nei prossimi mesi e soprattutto nei prossimi mesi, sapendo quello che succede, per favore, compagni e compagni, non dividiamo i movimenti in buoni e cattivi. Io innanzitutto, non perché ho tutti voi davanti, ma nel caso di Dino io devo ringraziare in primis la persona che mi sta a fianco, perché Dino quando è morto è stato, abbiamo avuto un percorso con degli avvocati non molto limpidi, e purtroppo questo in queste storie devasta sia l'omicidio stesso che la famiglia stessa, perché in primis tu dovresti avere la completa fiducia di chi hai accanto, perché ricorri agli avvocati e loro dovrebbero camminare insieme a te, insieme alle famiglie, andare in fondo, essere limpidi. Nel caso nostro non c'è stato, perché forse va proprio, la radice è proprio parte proprio da quel giudice e da quel processo. Io sono stata sola per 2 anni, ho cercato di mettere in giro, no, la morte di Dino, mi sono aggrappata anche a delle trasmissioni, ma non è in questa sede che voglio commentare chi ha fatto parte di queste trasmissioni e di quello che mi è stato detto, ma perché forse è sempre legato a quel processo da morto e a quei personaggi che poi si sono rifatti avanti. Poi ho avuto l'incontro con Ilaria, che non perché mi affianco, ma Ilaria mi è molto accanto, e perché forse in queste storie chi ti capisce completamente, non perché gli altri non ti comprendano, ma perché solo chi ci passa ti capisce totalmente. E allora ti può dare dei consigli e ti può dare anche il modo di come andare avanti. La presenza e l'affianco di Fabio, per noi Fabio ma è l'avvocato Anselmo, ha portato a un fastidio all'interno di quella procura. Io lo dico anche se con lui ogni tanto mi ci scontro, ma io non dirò mai un grazie a questo PM, perché questo PM doveva avere fin dall'inizio la coscienza di approfondire la morte di Dino. Non ce l'ha avuta, l'ha avuta al momento che gli si è presentato davanti questo avvocato, e da lì quel minimo di coscienza che aveva gli ha portato a trovare e a provare di riportare questo processo in appello. AGAD è stata l'associazione l'unica che nella storia di Dino è stata un elemento molto fondamentale, perché AGAD fin dall'inizio, quando ha saputo la storia, con la conoscenza della Rossa e di Checchino, perché io ho avuto Checchino vicino e ha affrontato e ne ha parlato come prima volta, AGAD si è molto prodigata in questa storia, ha fatto ultimamente anche un volantinaggio su di Dino ed è l'unica che segue e segue molto. Quindi io da AGAD non pretendo e non, anzi, è tanto quello che sta facendo. Dico solo che non riesco a capire per quale motivo, quando si parla dei casi dell'avvocato Anselmo, incredibilmente, come diceva Fabio, la scia mediatica cancella questo nome. È come che se Dino non dovesse avere nemmeno l'avvocato Anselmo, perché disturba l'omicidio di Dino. Tante volte mi chiedo, ma Dino da chi è stato sparato? Quindi sicuramente prima dell'appello il desiderio è quello che so che le persone che mi sono accanto mi aiuteranno, è quello, come diceva Fabio, di far emergere questa storia, ma non tanto per disturbare il discorso del processo, perché a livello giuridico io capisco quando lui mi dice determinate cose, ma la cosa incredibile è di portare alla luce il comportamento di questo giudice, perché questo giudice, stranamente la procura è piena di giudici, ritorna in questo processo assolvendo chi ha ucciso Dino. E perché dico che è strano? Perché sinceramente a noi c'era stato assegnato un altro giudice, ma ce lo cambiano una settimana prima dell'inizio del processo e ci mettono proprio lui. Quindi io penso che la morte di Dino abbia delle radici proprio da quel passato. E io prego tutti e invito tutti, come dice Fabio, a cercare di metterla in luce, perché Dino è stato ucciso a freddo e a quel giudice non è interessato nemmeno, stranamente, che un'altra parte della divisa, quella dei carabinieri, che nei casi che Fabio ha citato e che ci sono vicini vedono invece coinvolti, nel caso di Dino stranamente sono testimoni che questo personaggio ha sparato mentre Dino era fermo e ha alzato le mani. Ma colui che ha sparato, mi chiedo ancora perché stava in quella posizione quando doveva essere l'autista. Fabio in quell'aula gli era detto, ma quel giudice Fabio non lo sentiva. Quel giudice doveva correre, diceva che doveva sbrigarsi a chiudere il processo e lo doveva fare lui. Questo giudice non è più in quella procura. Gli è stato dato un altro incarico. Quindi penso che comprendiate quello che cerco di dirvi e Fabio ormai ha fatto ben capire. Io mi auguro che veramente si riapra ed emerga la morte di Dino, perché sparare due colpi, qui non si è trattato di sparare un colpo dicendo mi è scappato il colpo, che neanche lì sarebbe giustificato, perché non si spara a nessuno, tantomeno a una persona che affianca, spenge la macchina, tira il freno a mano e alza le mani. Lui ha sparato due colpi, e testimoni i carabinieri, ma in quell'aula a quel giudice non è interessato nemmeno quella testimonianza. Ci sono delle registrazioni che, se andate anche su YouTube, sono indescrivibili. Loro sapevano addirittura che Dino stava venendo a casa, ma non, Dino non doveva arrivare a casa. Io mi auguro solo questo, che emerga questa storia e che si sottolinei che le persone che mi sono vicino sono coloro che mi sono a fianco, alcune che sono qui dentro questa sera, e che si dica che Fabio Anselmo è l'avvocato di Dino Budroni. Le famiglie, i legali e infine gli attivisti. A nome di ACAD questa sera parlerà Carlo Catalisano. Ok, ci provo a prendere coraggio, che comunque insomma. Vabbè, io penso che innanzitutto ACAD oggi ringrazia il Forte Prenestino per aver costruito una delle tante iniziative che danno occasione ad ACAD, a Claudia, ai casi che ACAD segue, alle persone le cui storie proviamo a raccontare, di essere conosciute. E quindi penso che sia anche stato molto importante come il Forte Prenestino ha accolto questa iniziativa e ha tenuto a contestualizzarla, perché a livello personale dico che sicuramente a far parte di questa associazione ACAD mi ha spinto una sensibilità che viene da percorsi di attivista politico che Genova magari non l'hanno vissuta in prima persona per questioni d'età, ma che comunque l'hanno nel DNA. E i casi in cui diciamo la violenza delle forze dell'ordine si esprime li conosco bene da tanti ambiti. Quello che mi ha fatto ricordare un'iniziativa che abbiamo fatto qualche settimana scorsa a Ricomincio dal Faro, con la proiezione del documentario su Federico Aldorandi, mi ha fatto rivenire in mente un pensiero che ho avuto all'epoca leggendo del suo caso. Federico subito fu messo nella categoria di ragazzo che usciva dal centro sociale che aveva preso qualche droga e che in base a questo o era morto di morte naturale o comunque in qualche maniera giustificava quello che poi è avvenuto, di due manganelli che si sono rotti su di lui. E questa cosa mi fa anche ripercorrere un pezzo della storia di ACAD che sicuramente esiste grazie a persone come Claudia o come Ilaria, che hanno avuto la testardaggine e il coraggio di cercare un processo e di cercare la verità e la giustizia, perché fondamentalmente ACAD non riusciamo quasi mai a parlare di tutti i casi che segue, ma sono tutti casi in cui liceità legale diventano degli atti che hanno portato via la vita a delle persone. Cioè, nei tribunali questo viene detto, e noi ci proviamo ad andare per raccontare queste cose che a volte ci trovi le telecamere, ma troppo spesso non vengono proprio raccontate. Nei tribunali viene detto che è legale, è lecito che le forze dell'ordine in divisa possano assumere dei comportamenti che portano a uccidere delle persone. E in questo vengono proprio assolti. Non bastano prove, non bastano video, come in alcuni casi che abbiamo seguito, non bastano dichiarazioni della vittima, che le cui ultime parole sono: mi hanno massacrato nel commissariato di Anzio, e per il caso Brunetti non ci sono stati colpevoli. E quindi, insomma, noi esistiamo da 2 anni e veramente sembra una sfida molto ambiziosa, però appunto dicevo, veniamo da un'esperienza in cui abbiamo orizzonti ambiziosi, perché sfidare un Moloch come lo Stato nel rivendicare giustizia significa anche mettere alla luce tanti meccanismi che lo Stato mette in atto per negarla la giustizia, perché nei casi che seguiamo tante volte viene negata, cioè la verità che viene ricostruita serve a far rientrare le vittime in delle categorie che a quanto pare non meritano l'esistenza, e non solo, una volta ricostruita questa verità si nega una giustizia non condannando nessuno, cioè ci sono casi in cui si afferma che si è morti per atti di autolesionismo, senza entrare nello specifico, ricostruzioni scientifiche che hanno proprio, non dello scientifico ma della fantascienza. Non basta, vengono anche ricostruite, come nel caso di Nino, circostanze che dimostrano che non c'era pericolo per l'ordine pubblico, e nonostante ciò viene ritenuto lecito e legale quello che è avvenuto. Ci abbiamo un sacco di lavoro da fare e sicuramente non sarà una continua sfida da rinnovare ogni volta in occasioni come questa, moltiplicarle, riuscire a darci degli strumenti di comunicazione e di mobilitazione. Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, io sottolineo l'importanza che hanno avuto documentari, canzoni, prese di parola di personaggi che riescono a far diventare queste storie conosciute e accessibili a tutti quanti, perché sono storie che raccontano quanto lo Stato ha a disposizione dei dispositivi che gli rendono possibile negare l'esistenza ai suoi cittadini, senza che questi abbiano strumenti poi per difendersi. È una fatica dal punto di vista economico, dal punto di vista anche di quanto è duro stare in un tribunale in cui la vittima diventa il colpevole di un comportamento e il soggetto sul quale vengono fatte ricostruzioni che vi lascio immaginare che cosa possa significare. Dal mio punto di vista assomiglia moltissimo quando leggi degli articoli sui giornali che parlano di scontri, quando si tratta di manganellate che vengono fatte su ragazzini dei 15-18 anni. L'altro giorno si è parlato di scontri, io ho visto i video, ho visto dei ragazzini che prendevano le manganellate, cioè, sono chiaramente fenomeni diversi, ma che sono legati da degli stessi protagonisti, anche da delle stesse leggi che andrebbero cambiate. Cioè, ACAD a me ha insegnato che a livello esecutivo, a livello di leggi e a livello di copertura che i protagonisti hanno, lo Stato ha tutti gli strumenti per a cancellare, insabbiare la verità, cosa che magari in tanti già sappiamo, ma riuscire a raccontare questi casi, a dargli voce, ci aiuta a non far sentire sole le persone che lo saranno vittime di queste cose e che purtroppo continuano ad esserci, perché uno degli ultimi casi è avvenuto un anno fa, ha riguardato Davide Bifolco a Napoli, subito etichettato come il ragazzo che se la meritava perché stava in 3 sul motorino, sembrava qualcun altro, comunque sia, qualsiasi maniera, nell'immediato, per far passare l'idea che uno a 17 anni può morire colpito da un colpo di pistola senza alcun motivo. E fortunatamente anche in quel caso è partito un processo che che insomma si sta svolgendo, e quantomeno quel meccanismo ha trovato subito una risposta sia sul territorio da parte delle realtà territoriali di Napoli, che sono state subito vicine alla famiglia, sia da parte appunto dell'avvocato Anselmo e di Agad, che hanno provato a svolgere questa ambiziosa funzione che, insomma, ci serve una mano da parte di tutti quanti. Quindi rinnovo i ringraziamenti a chi ci dà e dà l'opportunità di portare avanti questi ragionamenti e questo percorso. E niente, io penso che sia tutto, perché no. C'è già un intervento da Napoli, c'è Ivan della rete antifascista napoletana che ha chiesto di parlare, il microfono è aperto, ricordo che c'è anche il banchetto di Acad dove è possibile sottoscrivere oppure prendere i nostri materiali, grazie. Buonasera compagni, noi siamo venuti da Napoli e volevamo farvi notare proprio che, come diceva il compagno di Acad, sulla vicenda di Davide Bifolco è stata fatta una criminalizzazione dell'intero territorio, quando poi in realtà sarebbe molto semplice mostrare alla vera gente, che poi vi spiego un attimo, Napoli sulla vicenda di Davide Bifolco si è spaccata veramente a metà, cioè c'erano i quartieri popolari che più capivano com'era andata la vicenda e c'erano invece quelli più lussuosi, i quartieri ricchi, che discriminavano completamente. Sono stati fatti articoli veramente ridicoli di criminalizzazione sulle intere periferie, e come dicevo invece è molto più semplice far vedere che mo ci vuole, che c'è sempre più evidenza del connubio tra mafia e Stato. Il primo corteo che fu organizzato a Rione Traiano, che è il quartiere di Davide Bifolco, fu veramente partecipato più da abitanti del quartiere, dai amici di Davide, che da attivisti veri e propri. Ci furono anche momenti di tensione e lì si può vedere chiaramente nei video che la polizia è stata protetta dalla camorra, compagni. Cioè, veramente, non vi stiamo dicendo bugie, c'era quasi un momento di scontri. Solo che se ci fosse stato lo scontro, no, sarebbero cominciate tante indagini su quel territorio, quindi la camorra con le piazze di spaccio non avrebbe potuto più lavorare. E, cioè, ovviamente lo Stato non è che ha preso provvedimenti su questi tipi, su motorini giganti che sono venuti con pistole che non hanno mostrato ma che sappiamo che avevano, a minacciare il corteo di andare via e far vedere quindi alla gente dei quartieri alti di Napoli o comunque dei ceti borghesi di tutta Italia, che in realtà i ragazzini del Rione Traiano stavano tutti quanti là a piangere perché non potevano fare altro, no? Cioè, seppure non fosse successo nulla, là sarebbe successo qualcosa nel quartiere sicuramente. E quindi far notare che il quartiere deve avere più diritti, proprio a partire dai bambini fino a finire agli anziani. Infatti con l'associazione Davide Bifolco, dopo il processo, è stata occupata una scuola che poi è stata assegnata all'associazione, dove si stanno svolgendo attività di dopo scuola, laboratori musicali. E la stessa cosa la stiamo facendo nel centro storico di Napoli con lo Scugnizzo Liberato, che è un posto che abbiamo occupato recentemente, sarebbe l'ex carcere Filangieri, ex carcere minorile. Quindi compagni, noi pensiamo che sia comunque doveroso essere costanti nelle lotte sui territori, offrire opportunità a noi visto che lo Stato non ci ascolta, e soprattutto fare tanta informazione ancora, perché la gente comunque sono cose banali e secondo me anche ridicole da ripeterci sempre, ma non lo so. Un altro caso di abusi di potere a Napoli è quella famosissima cella zero di Poggio Reale, che è una cella che praticamente sta al piano terra, dove sono stati verificati numerosi pestaggi, tra i quali quello di Federico Perna, non so se vi ricordate, che è fatto accusato di essere un tossicodipendente ridotto all'osso. Compagni, io avevo un'idea come singolo, però l'ho pensata oggi in treno, cioè quella che parecchi compagni non conoscono tutti i veri episodi di abusi di potere, quindi io veramente vorrei proporre di fare un poster con bene o male tutte le persone che sono state assassinate dallo Stato, magari metterne uno in ogni struttura occupata che abbiamo e anche lanciarlo magari sulla pagina di Acad, perché veramente c'è, non voglio dire ignoranza, ma c'è un velo su queste cose, non si va avanti. E far ricordare comunque che certo il processo di Davide Bifolco sta andando bene anche soprattutto grazie all'avvocato Fabio Anselmo, ma anche grazie al fatto che il giudice là, come diceva Claudia, è stata una persona più aperta, che più ha iniziato a capire. Noi non vogliamo dire che è andato bene, ma sta andando bene. Infatti l'agente Macchiarolo, che è colui che ha sparato a Davide, fu, come si dice, chiesero un rito abbreviato da svolgere il mese scorso. Invece il giudice non l'ha accettato, ha riaperto il caso e la prossima udienza si dovrebbe svolgere proprio in questo mese. Compagni, facciamoci forza e restiamo sempre uniti, facciamo più iniziative così. Buonasera. Grazie Ivan, e il microfono continua ad essere aperto. Buonasera a tutti, io vengo da Potenza, anche lì è stata organizzata tempo fa un incontro pubblico simile a questo per parlare di un caso avvenuto in realtà non in Basilicata ma in Campania, di un ragazzo che andava su un motorino e che, non essendosi fermato al posto di blocco, è stato buttato a terra dai carabinieri che lo avrebbero dovuto fermare al posto di blocco, e questa caduta ne ha provocato la morte. Il processo si teneva nel tribunale di Potenza ed è per questo motivo che la realtà potentina si è interessata al caso e si è avvicinata all'associazione ACAD. Visto e considerato quanto è stato detto fino a questo momento, e cioè che la solidarietà è un'arma e che solo se tutti noi riusciamo a dare risonanza mediatica ad un caso e se se ne parla, riusciamo a non sentire quell'isolamento che lo Stato cerca di creare intorno alla singola vittima, è importantissimo che la realtà, che tutti noi, che l'associazione ACAD e che noi attivisti riusciamo a capire che quanto più sia capillare la solidarietà, tanto più cioè per noi riesce a essere uno strumento di lotta diffuso sul territorio, perché capisco che magari vicende che accadano in paesini, in piccole realtà provinciali o in regioni di cui solitamente non si parla, vengano dimenticate più facilmente rispetto a casi che invece possano accadere in realtà grandi come Roma, Napoli o altre città. Per cui noi, come compagni di Potenza e come io come singolo e come tante altre persone che la pensano come me, ringraziamo l'associazione ACAD e tutti voi per il fatto di ricordarsi che esistano anche queste realtà, che soprattutto in queste realtà è importante parlarne, è importante far capire anche all'opinione pubblica, alle persone che solitamente non si interessano perché hanno anche un attivismo politico minore rispetto a quello che invece si trova in questi territori, che i casi esistono, che ci si bisogna interessare personalmente e forse scardinare quel velo di disinteresse che si crea intorno a queste vicende. Scusate per l'intervento confuso e grazie dell'attenzione. Non era per niente confuso, magari fossero tutti così chiari. Io intanto ringrazio le testimonianze e gli stimoli che stanno giungendo al dibattito. Chiedo ancora se ci sono altri interventi. Tanto l'udienza per Davide Bifolco, che veniva evocata, è il prossimo 19 novembre, quindi è fra pochi giorni. Il 15 dicembre torna il caso Cucchi in Cassazione, quindi ci saranno altri momenti comunque di attivazione anche sui social network, oltre che nei territori. E se non ci sono altri interventi, io direi che possiamo darci appuntamento anche alle prossime iniziative che costruiremo, per esempio intorno alla storia di Dino. Fuori c'è il banchetto e sta per cominciare la serata per ACAD. Grazie al forte, grazie a tutti.